Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica a tutti voi in contatto con il Groovemaster Studio qui su Radio 24. Buona domenica da Gegè Telesforo, questo è il Sound Check, la prova del suono di Radio 24. E come sempre la domenica vi presentiamo alcune novità. Oggi vorrei farvi ascoltare alcuni estratti da tre album che ho ascoltato ultimamente, mi sono molto piaciuti, molto diversi fra di loro, ma album che, se siete dei veri appassionati di musica, riusciranno a soddisfare la vostra voglia di note e di sonorità. Io direi di partire subito con la prima produzione discografica che arriva direttamente dall'Inghilterra, anche se questo album suona cubano al 100%, sì, perché la protagonista di questa produzione intitolata Cubafonia si chiama Daimé Arosena. Noi abbiamo già parlato di questa ragazza cubana che oggi ha 24 anni e si reca a La Habana, Cuba, soltanto per andare a trovare i suoi parenti, perché si è trasferita ormai da qualche anno a Londra. Una storia abbastanza particolare, quella di Daimé Arosena, giovane talento cubano, vocalist fantastica, compositrice, ma anche percussionista, e anche percussionista vocale, e ve ne accorgerete dopo aver ascoltato il primo brano che abbiamo messo in airplay. Fatto sta che Daimé Arosena viene scoperta discograficamente da un magnate della discografia internazionale, un signore chiamato Giles Peterson. Abbiamo raccontato molte volte le vicende artistiche e discografiche di Giles Peterson. È stato lui che alla fine degli anni 80, primi anni 90, con un'etichetta chiamata Talking Loud, inventò uno stile, un genere, l'easy jazz famoso inglese, che metteva insieme elementi dell'R&B a elementi tipici del jazz, sfornando tutta una serie di band importanti ancora oggi, dagli Incognito, ma anche stimolando il lavoro di molti artisti americani, e fra questi potrei ricordare anche la regina del New Soul come Erykah Badu. Ma torniamo a Daimé Arosena, 24 anni oggi per questa ragazza cubana, abbastanza paffuta fisicamente, ma sul palco si muove molto bene, l'abbiamo anche vista perché ha fatto già dei concerti in Italia in vari festival importanti l'estate scorsa, ma sicuramente tornerà la prossima estate in virtù di questa nuova produzione, questo nuovo album, lo ripeto, intitolato Cubafonia, album fantastico, e qui si sente la mano proprio del suo produttore. Credo che ci sia stato un incontro artistico fra i due. Giles Peterson sfrutta al massimo del potenziale il talento di Daimé Arosena, vocalmente affiancando a questa formidabile artista eccellenti musicisti e creando per lei un sound assolutamente latino e cubano, ma con un piglio certamente internazionale. Direi di ascoltare subito il primo brano, primo estratto da Cubafonia, Daimé Arosena al Sound Check di Radio 24, per una produzione dell'incredibile Giles Peterson. Il producer discografico Giles Peterson, per tanti anni una delle voci famose della BBC inglese, un grande personaggio radiofonico, un uomo che con il suo gusto ha assolutamente condizionato le scelte musicali di tanti artisti della nuova generazione in Inghilterra, ma anche nel resto del mondo. Seguiti i suoi podcast, seguiti i suoi programmi radiofonici via internet, direttore artistico di vari festival importanti e direttore artistico della Brown, che è la sua etichetta discografica, per la quale ha firmato anche questo talento cubano 24enne Daimé Arosena, cubana ma residente a Londra. Ora Daimé è arrivata alla sua seconda pubblicazione, questo nuovo album intitolato Cubafonia sarà in giro per il mondo, concerti molto richiesta Daimé Arosena dal vivo, vi consiglio di andarla a vedere perché sta per arrivare anche in Italia con una serie di appuntamenti, tre concerti, il primo a Bologna il 20 di aprile al Bravo Caffè e poi arriverà il 21 di aprile, il giorno dopo, a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, nel Teatro Studio, che forse è uno degli ambienti che preferisco lì all'Auditorium Parco della Musica, la sala più raccolta, ma forse anche quella che acusticamente reagisce meglio a un certo tipo di performance. Il tour di Demè a Rosene in Italia si chiude poi il 22 di aprile a Milano al Bico Club. Mi sembrava doveroso presentarvi, miei cari amici di Radio 24, gli appuntamenti di Demè a Rosene, perché vi consiglio di non perdere il talento di questa fantastica donna cubana, oggi protagonista della scena internazionale della musica. Demè a Rosene al soundcheck di Radio 24, il brano è fantastico, Valentine. Soundcheck, il suono della musica. È la verità, diciamolo pure, siamo tutti portati a pensare che quando si tratta una materia come la black music, l'R&B, l'hip hop, il jazz contemporaneo, le cose più interessanti poi debbano solo ed esclusivamente arrivare dagli Stati Uniti piuttosto che l'Inghilterra. Ma con il soundcheck abbiamo dimostrato qui su Radio 24, nel corso proprio di queste quattro edizioni, che anche negli altri paesi si sono svegliati i musicisti, e anche da nazioni come la Nuova Zelanda, l'Australia, comunque queste sono nazioni anglofone, ma pure dalla Norvegia, dalla Svezia e anche dall'Italia, ormai possiamo aspettarci delle sorprese molto interessanti. Questi erano gli Electrophase, ebbene sì, una band francese, certo da questo brano è facile dedurlo, perché brano cantato in francese intitolato L'Art e la Manière, ma tratto da un album dal sapore e dal piglio internazionale dal titolo Electric City. Electrophase, band francese, un bello organico, 8-10 elementi sul palco, due vocalist eccellenti, lasciatemelo dire, un bravissimo MC Kevin, e anche la parte ritmica dice la sua, tra l'altro guidata da un musicista credo di origini italiane, perché di cognome fa Campanella il batterista. Dunque, mi sono divertito tantissimo ad ascoltare tutto l'album. Di solito negli ultimi periodi ascoltare un album per intero si fa un po' fatica, perché i brani si somigliano un po' tutti, quindi se non c'è una varietà presto ci si annoia. Invece con Electrophase mi sono divertito, proprio perché le composizioni hanno un piglio diverso, un sound diverso, mantenendo però una personalità omogenea. Electrophase, album intitolato Electric City, lo troverete anche in streaming su Bandcamp, potrete acquistarlo sui vostri canali di riferimento via internet, magari potete anche farvi spedire la copia su CD, ho notato che è stato stampato anche il vinile. Album di recente pubblicazione, speriamo di vederli in concerto in Italia, questi ragazzi che da noi non sono assolutamente accreditati, mi auguro che ci sia qualche direttore artistico di festival importanti nel nostro paese che colga il talento e la forza di Electrophase, anche sul palco sono molto forti, quindi non perdetevi Electric City. Il brano che ascoltiamo adesso si intitola Carry Me On, Electrophase al soundcheck di Radio 24. Molto interessante questa composizione. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Fanno la loro prima apparizione al soundcheck di Radio 24 i Resolution 88, e 88 in Resolution 88 sta per gli 88 tasti della tastiera, e qui stiamo parlando proprio del Rod Spender, non di un pianoforte, sì, perché il tastierista Tom O'Grady, giovanissimo, che ha già fatto tournée e dischi con gli Incognito, è proprio uno specialista di questo strumento, così come lo sono stati grandi pianisti, grandi musicisti, a partire da Herbie Hancock, George Duke, Chick Corea, anche Keith Jarrett per un certo periodo si è appassionato al suono del Rod Spender, che anche nei software digitali più comuni e più importanti lo ritroviamo insieme a quello del pianoforte acustico. A dire il vero sono tre i suoni delle tastiere più utilizzati: pianoforte acustico, Rod Spender e il suono del Wurlitzer, che è il primo pianoforte elettrico. Infatti Rod Spender è nato come dire subito dopo, diversi anni dopo la creazione del Wurlitzer, che ha cambiato proprio l'approccio sonoro nella musica contemporanea, in modo particolare nella black music, con la prima registrazione fatta da Ray Charles in quel famoso brano intitolato What I Say. Ma qui il protagonista è il Rhodes Fender 88 tasti. Sì, è stata fatta anche una versione un po' più contenuta, ma vi assicuro che sono strumenti pesantissimi, difficilissimi da trasportare e anche abbastanza delicati. Però c'è un bel mercato su questi strumenti, un mercato vintage che sta andando molto bene. Potete acquistare degli strumenti in buone condizioni a partire dai 1.500-2.000 euro in poi. Insomma, in internet ormai diventa facile rintracciare rivenditori autorizzati che possono fornirvi degli strumenti anche in ottime condizioni. Resolution 88 quindi celebrano la loro passione per il suono del Rhodes Fender, e con il prossimo brano intitolato Taking Off qui ricordano proprio Herbie Hancock e gli Ed Hunters della metà degli anni 70. Gli appassionati del genere sanno esattamente di cosa sto parlando. Resolution 88 chiudono questo soundcheck e vi do appuntamento a sabato prossimo, sì, al prossimo soundcheck, sabato prossimo 19:15, sempre e soltanto sulla nostra radio preferita, Radio 24. A tutti voi buona serata, buona settimana e buona musica da Gegé Telesforo.